Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Onori al presidente Napolitano! Vorrei ringraziare il presidente per la forza e la saggezza con la quale ha saputo guidare le istituzioni italiane in questi anni difficili. Il momento è venuto, io saluto tranquillo. Salutiamo giustamente Giorgio Napolitano, che finalmente si è dimesso da Presidente della Repubblica, e gli chiediamo di rinunciare almeno alla carica di senatore a vita. Spetta ormai agli storici valutare le luci, ma anche le moltissime ombre dei 9 anni del Presidente Napolitano. Alla politica spetta avviare quel dialogo e quella condivisione per scegliere un vero arbitro per i prossimi 7 anni. Napolitano non si dovrebbe dimettere, dovrebbe costituirsi. Adesso dobbiamo discutere di quale sarà il profilo che dovremo avere i prossimi 7 anni, un grande arbitro che aiuterà il paese a crescere. Qualcuno che ha fatto qualcosa per l'Italia nel mondo, non qualcuno che sia reggicoda di Renzi, come purtroppo Napolitano è stato negli ultimi mesi. I 5 Stelle, se vogliono stare al tavolo, ci stiano, e loro devono scegliere. Spero che i 5 Stelle possano cogliere l'occasione, noi faremo anche senza di loro, ma sarebbe bello fare insieme a loro. Onorevole Roberto Fico, buongiorno, Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza. Allora, comincia la settimana cruciale. I 5 Stelle sono in partita, come dice Renzi, o stanno a guardare? Ma noi siamo sempre in partita, che significa che siamo in Parlamento tutti i giorni a lavorare per tutte le questioni. Il problema è che il Presidente del Consiglio dice i 5 Stelle devono scegliere, invece è il Presidente del Consiglio che deve scegliere che atteggiamento avere con tutto il Parlamento e con le forze politiche. Ecco, ma per voi essere in partita sull'elezione del Presidente della Repubblica in concreto cosa significa? In concreto significa che se loro, queste persone, vogliono scegliere un presidente, ho sentito i vari commenti all'apertura di questa intervista, un presidente della Repubblica che è simile a Giorgio Napolitano, a noi sicuramente non sta bene, perché il nostro profilo è di indipendenza assoluta dai partiti politici, da garante totale dell'architettura costituzionale, un presidente che mette all'ordine del giorno come primo punto l'anticorruzione. Noi vogliamo questo tipo di profilo, un presidente che non firmi ogni cosa come il lodo Alfano oppure il legittimo impedimento che poi vengono dichiarati incostituzionali dalla Corte Costituzionale. Ecco, invece tutti questi partiti continuano a elogiare Napolitano, e allora se loro hanno in mente un profilo del genere è chiaro che noi non ci staremo. Senta, onorevole Fico, ma voi allora avete dei nomi da proporre come la volta scorsa oppure questa volta no? No, in questo momento qualsiasi nome si fa viene bruciato per questo brutto vizio che ha la politica invece di parlare in modo sano, chiaro, a tutto il paese, butta nomi fuori per bruciarli. È come se fosse un brutto spettacolo. Ma voi un nome da buttare ma da sostenere ce l'avete? Noi in questo momento il nome è chiaro, Minoli, non faccio nessun tipo faccio nomi. Però quello che mi preme dire è che lo spettacolo che secondo me la politica dà e il Parlamento dà sull'elezione del Presidente della Repubblica è davvero penoso, perché è come se fosse un mercato, veramente un mercato delle vacche, dove ognuno cerca di tirare l'acqua al proprio mulino. Però ufficialmente nessuno ancora ha ancora detto niente, sono solo illazioni giornalistiche, lei sa. Sì, però anche il fatto che tutto si regge e poggia sul patto del Nazareno, che è un patto segreto di cui non conosciamo i contenuti, ogni volta veniamo a sapere che c'è un passo in più, un tema in più, le riforme costituzionali e poi il Presidente della Repubblica. Allora in un paese democratico e civile, se si deve reggere l'elezione del Presidente della Repubblica su un patto segreto tra due attori, ovvero il Presidente del Consiglio il condannato in via definitiva per frode fiscale Silvio Berlusconi, sinceramente senta, a noi non sta bene. Onorevole Fico, ho capito, ma quindi niente Prodi da subito allora per voi? No. Ma non ho niente da dire su questo. Cioè, non può dire neanche no? Non può dire neanche no? Sì, posso dire anche no. Vabbè. La politica quando diventa autoreferenziale, si parla sempre in questo modo, alla fine non interessa secondo me nessuno, però noi dobbiamo leggere ciò che sta accadendo. Certo, senta che, scusi se interrompo un secondo, ma sempre su questo tema del Nazareno, senta cosa ci ha detto qui da noi l'altro giorno la vice segretaria del PD Deborah Serracchiani a proposito del rapporto Renzi-Berlusconi. Si potrebbe mai fare il Presidente della Repubblica senza Berlusconi? Ma io credo che non si dovrebbe e potrebbe fare mai senza alcuna forza politica. No, ma mi risponda alla domanda. No, io sono convinta che Berlusconi parteciperà all'elezione del Presidente. Quindi senza di lui non si può fare, diciamo. Eh beh, i numeri sono abbastanza chiari. Insomma, anche tenuto conto che dopo il quarto scrutinio c'è una maggioranza assoluta, in ogni caso servono dei numeri importanti, anche per legittimare il prossimo Presidente. Ecco, ma se sarà così, come diceva Serracchiani, voi che fate? No, più che altro io dico alla Serracchiani che vi ha fatto una proposta ieri, tra l'altro, di leggere, io ho letto l'amaca di Serra dove dice a tutti gli elettori anche del PD che hanno votato il PD, che hanno votato questa secondo me falsa sinistra, di dichiarare prima delle elezioni se preferiscono lavorare su alcuni punti col Movimento 5 Stelle, che comunque fatto di o con Berlusconi. La Serracchiani vi ha fatto una proposta, no? Ieri mi sembra, sulla legge elettorale. Una proposta, che vi interessa o no? Ha fatto una proposta, ha buttato lì una lettera dopo che non si sentivano da mesi, quando noi avevamo aperto il tavolo sulla legge elettorale, avevamo proposto una serie di tematiche, loro non si sono fatti più sentire, adesso all'improvviso, siccome sono molto in difficoltà, cercano di spostare l'attenzione. Ma la proposta nel merito? A noi ci interessa fino a un certo punto la legge elettorale, perché non pensiamo che è la priorità del paese. La priorità del paese è il reddito di cittadinanza, è la legge anticorruzione, l'aiuto alle piccole e medie imprese. Senta, onorevole Fico, queste sono le priorità del paese. Adesso la Serracchiani che cosa sta facendo? Siccome ha molti problemi al Senato, perché ci sono più di 30 senatori del Partito Democratico che non vogliono le liste bloccate, giustamente come era scritto nel programma del Partito Democratico prima delle elezioni, allora noi sulle preferenze possiamo sicuramente ragionare, noi vogliamo che tutti i deputati siano eletti con le preferenze. D'accordo, senta onorevole Fico, tra i 5 Stelle è iniziato qualche smottamento, lei pensa che ci potrà essere qualche voto sotto banco invece a sostegno del candidato di Renzi e Berlusconi? Ma io credo che noi facciamo un lavoro sempre serio e chiaro. No, però è vero che ci sono, che c'è stato uno smottamento, è vero, poche persone, quante, però un certo numero. Uno smottamento in un percorso così complicato e difficile come quello del Movimento 5 Stelle è anche normale e non mi preoccupa. L'importante è tenere la barra dritta, essere coerenti con quello che noi abbiamo detto. Però sono una ventina, 26, insomma, non pochi. Non conosco i numeri. È il suo partito. Questi sono sempre dichiarazioni che ci sono. Senta, ma secondo lei, onorevole Fico, se non fosse eletto in tempi ragionevoli, diciamo 6-7 scrutini, il governo rischia se non si elegge il Presidente della Repubblica nel primo giro? Sì, il governo rischia, ma il governo rischia perché... Cioè rischia di cadere, secondo lei? Il governo rischia, certo, ma il governo rischia soprattutto perché è costruito su un castello di sabbia e non regge su nulla, anche perché più avanti si va e più annunci si fanno, più si vede che tutte le cose che hanno dichiarato in conferenza stampa, che ha dichiarato Renzi, non vengono fatte, sono provvedimenti totalmente inutili. Senta, onorevole per le Fico, persone che continuano a stare male e soffrire. Senta. Ed è per questo che il carico di governo alla fine cadrà, ed è per questo che il governo rischia sempre. Senta, onorevole Fico, una domanda che riguarda il suo ruolo. Renzi ha detto la RAI ha dato soldi a blog di Grillo, è vero? Non è vero in sé, detto in questo modo, però è vero in che senso? Una deputata del Partito Democratico, la Bonaccorsi, aveva visto un'inserzione sul blog di Grillo della RAI, ma quello è un sistema di Google tramite cui una società... Vabbè, un modo indiretto, diciamo, un modo indiretto. In modo indiretto. Beh, non è bello però, non è bello. Sì, no. Sono d'accordo. Ah. E senta, è stata fatta l'interrogazione, la RAI ha risposto chiaramente Vabbè, c'è stato. La RAI che non riesce a capire subito i fatti di Parigi, l'ha stupita? Sì, mi ha stupito. Questo ma è credibile grave. Ancora come servizio pubblico un'azienda pubblica che non riesce a capire cosa sta capitando, avendo 13 reti? È un servizio pubblico purtroppo che non è all'altezza del nome di servizio pubblico come dovrebbe essere in una società democratica e civile. Il punto è di non cambiare i palinsesti nell'immediato per fare degli approfondimenti, certo, in prima serata è grave. Infatti, avendo soprattutto una rete all news che potrebbe essere declinata su tutte le reti in un minuto. Sì, la rete All News però rimane All News. No, ma se serve all'istante uno lo può mettere. Vabbè. Però non è tanto questo il punto. Il punto, certo, è che dovevano essere fatti degli approfondimenti. Non c'è dubbio. All News in prima serata. Però la vigilanza su questo ha lavorato molto. Ha scritto una lettera, ha fatto notare tutto l'accaduto e il direttore generale ha risposto che avrebbero cambiato il modo di organizzare i palinsesti. Meglio tardi che mai. Meglio, senta, certo, onorevole Fico, un'ultima domanda. Mesi fa qui da noi lei ci ha detto che questo vertice andava giudicato dopo aver avuto il tempo di agire. Adesso il tempo di agire l'ha avuto ed è in scadenza. Lei che voto gli dà? Ma io dico che più che il voto, quello che è mancato secondo me è la capacità di programmazione editoriale. Vabbè, questo, ma quello è fare televisione e programmazione editoriale. Quello è il lavoro della televisione. No, perché ormai nel nostro paese c'è questa filosofia dei grandi manager, solamente grandi manager che pensano più ai conti e ai numeri che poi al prodotto. Sì, no, ma la televisione è quello che va in onda, onorevole Fico. Esatto, siamo d'accordo su questo. Perciò le dico questo, che il prodotto editoriale secondo me non interessa a nessuno. Senta, c'è Mario Secchi che vuol fare una domanda. Prego. Buongiorno Fico. Dunque, oggi è 19, il 29 sì, c'è la prima seduta, quindi mancano 10 giorni. La segreteria e direzione del PD sono riuniti in maniera permanente. Insomma, mi sembra un po' surreale che voi non abbiate ancora idea di quale nome fare per la presidenza della Repubblica. Ma lei lo chiede a me quando poi... Certo, lei è un importante esponente. Lei lo chiede a me, certo, nel momento in cui il Presidente del Consiglio dice io farò il nome 24 ore prima, sì, però... dell'inizio delle votazioni. Non si vogliono, allora, non si vogliono scoprire. Perché giusto, loro possono però fare loro sono trasparenti per definizione. E noi siamo tranquilli. Noi siamo tranquilli, stiamo elaborando e siamo in lavorazione. Ha una domanda a buttafuoco, onorevole Fico. Buongiorno, premesso che buongiorno, dovete essere trasparenti per definizione, quindi anche certo, all'inizio. Però una curiosità, lei prima a proposito del PD ha detto una finta sinistra. Ebbene, sì, una volta per tutte, la vera sinistra siete voi, se ne deduce. Io le dico molto sinceramente che noi siamo un movimento che è post ideologico, è un movimento che si fonda e si costruisce nella postmodernità e nell'era digitale, dove si usa lo strumento più nuovo del mondo che è internet, unito allo strumento più vecchio del mondo che sono le piazze reali, e nelle piazze reali e con la rete costruiamo questo movimento che è post ideologico. La risposta mi sembrava ottimo, quindi sì, a maggior ragione sinistra. Sinistra. Va bene, volevo se mi consentite, sì, dica al volo che siamo chiusi. Sì, il 24 gennaio sarà la notte dell'onestà a Roma in Piazza del Popolo, aderito anche per Camillo Davigo, Fedez. Vabbè, perché okay, dobbiamo ricordare che l'onestà è il primo punto che questo paese deve ricostituire. Grazie onorevole Fico. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Ecco, parliamo di noi, parliamo un pochino di informazione. Che è successo? Gian Giacomo Schiavi, che è il vice direttore del Corriere della Sera, sì, ci lamentiamo sempre delle notizie orrende che ci sono sui giornali, sì, sui telegiornali, è l'autore, è il curatore di Buone Notizie, cioè di storie di un'Italia controcorrente pubblicate nelle pagine del Corriere della Sera. Ecco, Gian Giacomo Schiavi, com'è nato questo libro? Questo libro novembre è nato semplicemente come pretesto. Noi giornalisti abbiamo molte colpe, siamo strabici e abbiamo dimenticato che ci sono alcuni lettori che vogliono essere informati e non soltanto ossessionati. Ecco. E quindi questo è stato il punto. Quanto influisce la crisi dei quotidiani sulla difficoltà di dare delle buone notizie? Qual è il rapporto? Influisce parecchio, perché c'è un problema di fonti. L'informazione generalista per un giornale come il Corriere della Sera è finita. Oggi lo spazio si trova nel locale, si trova nell'informazione più generale, globale, e si trova nell'iperlocale. Noi dobbiamo trasmettere di più certe passioni, ecco, certe emozioni. Dottor Schiavi, nel suo ultimo libro, numero zero, Umberto Eco descrive la vita di una redazione nell'Italia del 1992 e fa dire al direttore, parole testuali, non sono le notizie che fanno il giornale, ma è il giornale che fa le notizie. È vero? No. Non è vero, non è più vero. Forse in passato è stato così. In passato bastava semplicemente avere un giornale autorevole, un giornale importante, e c'era questa parola che veniva usata, credibilità. Oggi non è più così. Oggi noi siamo assediati dalle notizie. Ecco, in che misura oggi è il lettore allora che fa il giornale? Il lettore chiede al giornalista di selezionare le notizie e soprattutto chiede al giornalista di aiutarlo a decifrare quello che cambia nella società. Noi spesso raccontiamo soltanto notizie negative, raccontiamo soltanto un pezzo della società, dobbiamo cercare delle nicchie. Ecco, dottor Schiavi, secondo lei un giornale di sole buone notizie potrebbe funzionare? No, quello è un rischio. Quello è un grosso rischio, anche perché insomma, le notizie, lo sappiamo, sono fatti insoliti, sono fatti. Ma perché c'è il rischio, assurdi. C'è il rischio di cadere nello strano ma vero se fossero solo buone notizie? Per gli americani è proprio così, lo strano ma vero, che tra l'altro ha un effetto molto contagioso sul web. E il problema dei giornali, i giornali devono raccontare notizie che siano anche storie e quindi devono andarle a cercare, i giornali purtroppo le cercano poco. Ed è per questo che sono in crisi. Ed è per questo che sono in crisi. Secondo Montanelli, una notizia è per definizione un evento insolito, drammatico, assurdo, significativo, gravido di conseguenze, sono parole sue. Per lei il bene diventa una notizia perché il male è la norma? Si è rovesciato il mondo, insomma? Si è rovesciato il mondo e quello è vero. Il male è la norma e quindi uno che si comporta in maniera normale è quasi un'eccezione, per cui è diventato un fatto che crea notizia. Però io credo che ci siano tanti episodi e tanti fatti nelle pieghe della società che noi abbiamo smesso di setacciare, abbiamo smesso di raccontare. Pigrizia? Molta pigrizia, molta autoreferenzialità e soprattutto molta diciamo sclerosi da parte di fonti che sono usurate, le solite fonti giornalistiche, sono troppo, da troppi anni sono sempre le stesse. Ecco, dottor Schiavi, lei sostiene che le buone notizie raccolte in questo libro, nel suo libro Buone Notizie appunto, raccontano la realtà di un paese spesso molto migliore della classe dirigente che lo rappresenta. È sempre stato così o una novità? Forse è una novità, perché prima c'era anche una relazione diversa con le istituzioni di questo paese. Oggi c'è sfiducia nei confronti delle istituzioni e spesso ci sono realtà locali, piccole realtà dove ci sono comunità che si sono attrezzate per cercare di trovare nuovi modelli e soprattutto ci sono comportamenti che noi spesso non monitoriamo. Ci sono per esempio dipendenti di una fabbrica che accettano di lavorare pur essendo in cassa integrazione per fare lavori socialmente utili a una comunità. Ci sono tante piccole cose che prima non accadevano e che oggi accadono. Diciamo che siamo in una situazione che ricorda un po' il dopoguerra. Senta, dottor Schiavi, un'ultima cosa. Mi dice l'ultima buona notizia, davvero buona, che non trova spazio nel giornale, neanche nel Corriere della Sera? L'ultima buona notizia che non trova spazio nel giornale è molto difficile da trovare, ma l'ultima buona notizia sarebbe leggere per esempio un Presidente della Repubblica amato dagli italiani, in grado di rappresentare al meglio questa Italia che è sicuramente meglio della classe politica che la rappresenta. E quindi anche un buon direttore del Corriere della Sera, se mai dovesse cambiare. Anche un buon direttore del Corriere, ma stiamo benissimo con l'attuale direttore. Quindi ce lo teniamo stretto. Bene. Sports 24. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Ne parlavamo. Descrivi la scena. È tutta colpa del filosofo. Lo incontro ogni mattina in metropolitana. Allora, mi ha fatto una lezione oggi su questo concetto, e cioè che noi non vediamo ciò che viviamo e non si vede ciò che ci sta intorno. E lui me lo spiegava attraverso la prospettiva del treno in corsa, quello dell'ultima carrozza come quello della prima. Figurarsi ciò che ci abita dentro. I pensieri non si vedono e sgorgono senza regola. L'esserci di ognuno, ha spiegato mentre si sosteneva al corrimano, è il luogo di maggiore intimità con se stessi, ma anche il latente tema primitivo di ogni Mario di ogni separazione. Noi non vediamo ciò che pensiamo, solo il cuore. Io mi voglio perché unire. Tu sei il più sentimentale. Solo il cuore ha sentenziato, a occhi in grado di aggirare la realtà per giungere all'inaggirabile verità. E la verità è quella della canzone di Paolo Conte che stiamo ascoltando nella versione di Ornella Vanoni. Insieme a te non ci sto più. Chi se ne va, che male fa. Grazie. Hai visto? Beh, ma l'hai letto l'affettuoso elogio di Pietrangelo che gli ha fatto Domenica Scalfari? Ma io leggo sempre ormai, Eugenio, siamo... Eugenio per noi is the best. Cioè, bolla! Vai! Dai, la verità è giusta, la verità funziona, la verità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, la verità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. L'avidità. Allora, è una giornata di classici, ve lo dico subito, quindi subito un grande Gordon Gekko. Per dirvi che cosa, si parla di 1%, Giovanni, allora mettiamo in fila le cose. Barack Obama ha deciso che, insomma, deve fare un bel aumento delle tasse sul reddito e la proprietà dei super ricchi. A Davos si riuniscono i super ricchi che dopo aver saranno sciato, molto incazzati. Sì, ma dopo aver sciato con eleganza, discuteranno amabilmente di fronte al camino e con la coppa di champagne e di che cosa? Della povertà, ovviamente quella degli altri. Secondo i dati di Oxfam, sapete tutti un'organizzazione, una charity eccetera, e che ha elaborato su dati di Credit Suisse, l'1% della popolazione avrà presto una ricchezza pari a quella di tutto il resto del mondo. Volete andare avanti così? Buona fortuna, non dico altro. Buona fortuna. Salamino! Salamini per i lavoratori! Allora, per Sergio Cofferati. Per Sergio Cofferati si chiude una porta, ma si apre un porticato. Buggerato alle primarie in Liguria, dove la candidata di Matteo Renzi, Raffaella Paita, ha vinto le primarie essendo stata sostenuta, a sua insaputa ovviamente, da esponenti di Forza Italia, NCD e quant'altro, come sostiene lo stesso cinese in un'intervista, buffoniato, insomma, il nostro Cofferati vede però davanti a sé un'autostrada libera di qualunque ostacolo. Altro che la regione Liguria, esce dal PD il nostro Cofferati ed entra nella leggenda. D'altronde lui chi era? Era questo. Laura Scampo di fronte a te. Laura Scampo di fronte a te. Ecco, Tex Willer, tale era e tale dovrà tornare ad essere, tant'è vero che Maurizio Landini, che è il segretario della FIOM, dice oggi a Fabrizio Roncone sul Corriere una cosa. Cerchiamo di indovinare chi è, perché lui dovrà entrare ed essere leader di questo pubblico. Felicissima sera a tutti questi signori, trovatate. che sta come diva così all'era. Uomini chic e femmine pittate. Femmine pittate. Chi sono gli uomini chic e femmine pittate? Sono quelli della lista Tsitsipras. E quindi, che cosa ha detto? Sarà il nostro Tsipras, ma il vero porticato di Cofferati non sarà quello di caricarsi sulle spalle la carovana questa degli uomini chic e delle femmine pittate, bensì, come dice Stefano Fassina, seguire le ripercussioni sul Quirinale. Allora, il ragionamento è questo: meglio un Cofferati oggi che un Mattarella domani, perché i grandi elettori saranno comunque rassegnati a scegliere un altro comunista. I democristiani, dopo tutto, sono solo comunisti per le allodole, perfino meno elastici dei compagnucci ortodossi, più violenti nell'applicare l'ortodossia dei tagliagola. Dio ce ne scampi, l'esempio è quello di Oscar Luigi Scalfaro. Mamma mia. Sarebbe stato meglio Ciputti in persona. Sì. Ma comunque, Quirinarie o Quirinalie che dir si voglia, ecco sul Colle sode una sola canzone e sarà la stessa per 7 anni a venire. Ascoltate. Avanti o popolo alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. E se vince Mattarella lo stesso, No, è di più anche di perché più. Catto, una variante catto. Catto, comunista. Saranno catti. Saranno Bolle. Molti catti. Molti catti. Senti qua. Classic. Allora, un tempo era l'Austria Felix, oggi è l'Europa in Felix. Ragazzi, allora, è una settimana micidiale, eh? Allora, abbiamo Mario Draghi che prepara per giovedì il quantitative easing, cioè l'acquisto dei titoli di Stato, e poi vediamo in che forma, come, quantità, è tutto ancora da decidere, Germania permettendo, comunque. Pare sia tutto pronto. Poi allacciate le cinture, perché se non funziona la questione andiamo tutti gambe all'aria. Ma nel frattempo si vota in Grecia. E allora attenzione, perché può succedere di tutto. C'è una cosa interessante che va tenuta d'occhio e riguarda l'impatto che avrà il voto della Grecia. Potrebbe essere molto forte. Sì, potrebbe essere molto forte. Si stanno preparando. Anche un aiuto a Renzi. Sì, in parte sì, in parte sì. Io penso anche che sia necessario che ci sia questo shock, certo, in qualche maniera. In Europa, so che la cosa può storcere il naso, ma io penso che gli shock siano salutari. E il ministro dell'economia francese Sapin ha parlato col Financial Times e segnalo che ha detto che bisogna rispettare il voto greco e prepararsi a trattare con loro. La cosa è molto importante perché Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, e il primo ministro finlandese Stubb invece hanno detto che non si tratta. Quindi, vedremo. Si aprono grandi giochi con molte frontiere, la Francia ha aperto la sua, però. Quindi per l'Italia si crea uno spazio, in effetti. Vediamo, la Francia poi alla fine sta sempre con la Germania, l'ultima bolla. Allora. No, scusa, Salamino. Quindi ero già pronto. La Sicilia con l'autonomia. Ma più che un salamino, un urto di nervi vi vorrei comunicare. A San Vito Lo Capo, in Sicilia, che è uno dei posti più belli del mondo, accanto alla riserva naturale dello Zingaro, un posto mozzafiato, un incanto dove solo le bestie possono immaginare di fare gli incenti dolosi a uso delle clientele. Insomma, a San Vito Lo Capo, nella spiaggia, le grotticelle, la scogliera è stata ridotta un cumulo di sassi nell'idea tutta paesana, anzi provinciale, di farci la stradella e arrivare con la macchina a pelo d'acqua. Uno scempio consumato all'insegna dell'ignoranza, se la vissero a mangiare le cane. È sempre, sempre preciso, il 19 gennaio del 2000, cioè 15 anni fa, moriva Bettino Craxi. Oggi su Mix 24 con Marina Melone noi ripercorreremo la sua vita, la carriera politica del leader socialista che ha segnato la storia dell'Italia degli anni Ottanta. Dopo il giornale radio, la storia di Bettino Craxi. Mix 24, la storia. La giornata delle voci su Bettino Craxi, un susseguirsi di ipotesi sul luogo in cui l'ex segretario del Partito Socialista si troverebbe.